tecniche di trasmissione alle ore 21.05. E lo facciamo naturalmente da Radio Onda Rossa, il cui sito è www.ondarossa.info. Andremo avanti sino alle 22.30, forse qualche minuto in più. Peraltro 25 o'clock questa sera andrà in onda in forma di replica. Vado a salutare Maglie in Umbria, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Sara Capo Fontana di Zaide. A Taranto c'è Doriana Panico. Saluto Daniele e Santa Giuliana di Testing Bolt. Marco Magia di Progetto Sonoro, Tiziano Zero Farinacci di Pi Greco, un grosso abbraccio a lui. Nicola Locci di Stigmate Hexagonal dalla Sardegna. Cristiano Bocci, del quale vado a segnalare un album insieme a Lucky Wake, e Jean-Claude Bertot dal nome Cosmonauti, un album bellissimo che vi consiglio e presto ci ascolteremo da queste parti. Mariano a Roma, Antonio Zoviet di Omicidio in quel di Firenze. Appunto Like Awake lo vado a salutare. Venusia Zozzetta Stramonio. Buonasera anche a lei. Davide Mastrullo di Canglore, Flavio Derbecanta, Arianna Agnini Lombardo di Noise Cluster, Giulia qui a Roma. Un grosso abbraccio a Eugen Vintras della Detten in Venice, che chiameremo in causa nel corso della trasmissione. Francesco Cornello a Bergamo. Saluto anche Marcio Gronge, colonna della musica elettronica sperimentale da molti molti anni. Come la scorsa settimana diamo la precedenza a questa compilation ideata da Raffaele Pezzella, naturalmente, che ormai non ha più bisogno di presentazione, a tante label da gestire, tra cui la 8 Tower Records, con il quale è uscito questo interessante compendio. Dal nome Music for Abandoned Monasteries, quindi le fascinazioni che possono donare monasteri abbandonati e le conseguenti, diciamo, colonne sonore di queste suggestioni. E quindi questa sera ci ascolteremo tre tracce di tre diversi artisti. Cominciamo con il norvegese Tafefobia con The Sky Was Leaden Over the Abandoned Monastery. Abbiamo il portoghese Silenicum, Shadows of Holy Past. E poi una vecchia conoscenza, Michael Bonaventure con The Twelfth Chapel. poi anche questa sera abbiamo riservato un passaggio sostanzioso di questo Music for Abandoned Monasteries. Tutte le tracce sono intense e di valore e sono ad appannaggio di diversi artisti, soprattutto stranieri. Il norvegese Tafofobia, il portoghese Sileni e il nostro Michael Bonaventure, sicuramente riconoscibile per le sue partiture d'organo unite alla sperimentazione di cui è maestro. Si vede anche una bella copertina sul profilo Bandcamp, un disco insomma che io vi consiglio caldamente di procurarvi tramite la 8 Tower Record di Raffaele Pezzella. Adesso invece andiamo da un altro punto di riferimento della scena sperimentale, trattasi di Eddie Newton, che oltre Claude DVA e Antigroup di tanto in tanto si, come dire, si esprime anche usando il proprio vero nome. E quindi in questa circostanza andiamo a sentirci un altro passaggio da Newtons, un lavoro uscito nel 2022 attraverso la Rizosfera di Enea Rustichelli. Vi ricordo ancora una volta che il sabato 15 marzo ci sarà una presentazione a Torino dell'ultimo lavoro di Oders 82, un lavoro polimediale con pennetto USB, un libro, insomma una confezione abbastanza anomala, un disco abbastanza particolare per Oders che speriamo di procurarci al più presto. E notizie diciamo ulteriori si possono trovare sia sul sito di appunto dalla Rizosfera e nei vari riferimenti anche Facebook di degli stessi Oders. Il tutto si terrà a Torino. Tornando al nostro Eddie Newtons, dunque da questo Newtons, un gioco di parole anche con il cognome del buon Eddie, ci andiamo ad ascoltare Last Signal. Thank you. contiene materiale che va dal 2008 al 2021, questo Newtons. Le parti elettroniche di questo album naturalmente sono curate dallo stesso Eddie Newton, mentre quelle relative ai fiati, al clarinetto, al sax, al flauto, sono d'appannaggio di Michael Somerset Ward. C'è anche il sodale Tez Maurizio Martinucci, ormai in pianta stabile anche nei Crow DVA, soprattutto dal vivo. Grande live dei Crow DVA verso la fine del 2024, era il fine dicembre a Caserta, purtroppo in un'unica data italiana. Mentre aveva suonato un paio di giorni prima come antigroup, credo dentro una chiesa più a nord, non so se non ricordo male, proprio in Emilia Romagna oppure non lontano da Caserta, adesso non ricordo. Comunque, quando capita in Italia è sempre buona cosa andarselo a vedere, sorprende sempre. Torniamo in Italia, anzi arriviamo in Italia, è il primo artista italiano di questa sera ed trattasi di Rodrigo Passannanti. Rodrigo Passannanti che ha il merito di alternare strutture IDM, tech step, anche synth pop, a cose decisamente più prossime al dark ambient e anche ad approcci sperimentali, come questo Forgotten Words, anche questo un ultimissimo lavoro uscito sul finire del 2024. Anche questa sera una lunga traccia dal nome Law of Attraction. Intanto vado a salutare Alicia Sardinia. E questo invece era Rodrigo Passannanti. Questo è Forgotten Words. Splendida traccia di ispirazione, oserei dire space ambient, con dei rimandi anche alla tradizione dei Kraftwerk più liquidi. Copertina conseguente con un gioco di frattali e colori vari. Il tutto si può vedere sulla pagina Bandcamp della Cyclical Dreams, etichetta argentina. La legge di attrazione, Law of Attraction, ci ha tenuto compagnia per oltre 9 minuti. Salutiamo Rodrigo Passannanti, mi sembra di aver capito attualmente in vacanze in Egitto. E noi invece andiamo avanti, andiamo in Olanda, andiamo da Simona della Morte, che noi conosciamo da queste parti come Moschita di Miramar, particolarmente attiva negli ultimi tempi, sia come Feralia a Planizia, ma anche con un nuovo progetto dal nome Etrate. Molto diverso da Ferrovia Planizia, già che lì ci si muove nell'ambito della elettro, mentre Etrate si sviluppa su tematiche prossime al death ambient. E non è un caso neanche che incida per la Death in Venice production di Eugen Vintras. L'esordio si chiama Doom is Written on Your Brow. Questo lavoro si apre con Chaos and Caligo. Intanto si sono fatte già le ore 22 praticamente qui a Radio Onda Rossa, in onda con prove tecniche di trasmissione ed elettrodo ai controlli. Personalmente mi devo complimentare con Simona Della Morte e anche Giroin, con cui, con il quale ha creato questo, questa nuova idea musicale dal nome Etrate. Un turbinio apocalittico caratterizza gran parte delle tracce inserite in questo Doom is Written on Your Brow. Ricordo ancora una volta con la Death in Venice Production, etichetta gloriosa di Venezia, che in prospettiva andremo anche a conoscere meglio sfruttando delle compilation.